darci la lezione. Sei solo chiacchiere, sì, sì, sì. Solo chiacchiere. Due 50 minuti primi le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa, 87.9 della banda romana e laziale. E parte l'avviso di disconnessione. E cioè l'avviso di disintossicazione. Disintossicazione da quella che è la pandemia del secolo e non quella che abbiamo vissuto tutti e tutte un po' di anni fa, qualche anno fa, o le tante altre che magari interessano, epidemie che interessano luoghi più remoti della Terra e che normalmente non vengono curati. No, una pandemia è un'epidemia molto più, per certi versi, grave e profonda. E cioè quella dell'eccesso di connessione, appunto. E perciò vi invitiamo a staccare i cellulari, spegnere i social, spegnere la televisione, tenere accesa la radio, perché invece stasera vi invitiamo a lasciar libera di viaggiare, di navigare la mente insieme ai nostri suoni, come avete fatto d'altronde, insieme alle prove tecniche di trasmissione. Quindi il mercoledì notte / giovedì lasciatevi avvolgere dal delirio. Quindi uno spazio, questo, tolto ai ritmi del consumo e della produzione e anche della troppa informazione. Siamo arrivati a pensare questo e a dire questo. Perché occorre appunto una pausa alle volte. Forse anche di più di una pausa, una tregua. Anche per elaborare tutto quanto quello ci viene proposto. Le frequenze, dicevamo, sono quelle di Radio Onda Rossa, che dal 1977 vive solamente grazie al vostro supporto, al vostro ausilio, alle vostre, il vostro appoggio anche economico, e perciò in attesa che riparta una campagna di finanziamento attraverso il radioabbonamento e la raccolta che facciamo appunto ogni anno per garantirci almeno una base, o comunque per garantirci quello che è il necessario in termini economici per condurre l'anno in tranquillità, l'anno radiofonico. Appunto, vi invitiamo a non attendere radioabbonamento, e comunque se avete qualche spiccio o magari qualcosa di più, andate su www.ondarossa.info, il sito della radio, ci troverete una paginetta con scritto sostieni. Noi vi ricordiamo il vecchio numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Il sito ve l'abbiamo già enunciato, raccontato, detto. Ci troverete anche i podcast delle trasmissioni, delle corrispondenze, delle rassegne stampa, dei redazionali, degli speciali. Della radio è importante quindi che se vi perdete qualcosa possiate andare a recuperarlo sul sito stesso della radio, www.ondarossa.info. Ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni via email, 25 o'clock 25 scritto al numero @ondarossa.info per disturbare, molestare, mandare quello che vi pare, insomma, allo spazio che state ascoltando. E invece se volete interloquire con noi, o meglio ancora trillare di piacere qua a Radio Ondarossa, 06 49 17 50. E perciò ce ne andremo lenti, potenti ed essenziali. tutte le varie sfaccettature, varie tendenze, vari stili del metal, sicuramente quello che più ci ha convinto negli ultimi anni è senz'altro questa roba qua, che nasce all'incirca, così buttiamogli una data, ma assolutamente senza... la pretesa che sia effettivamente quella, metà degli anni 90, diciamo, buttata là. E cioè il post-core. E ovviamente, dato che parliamo di questo, non potevamo che iniziare con Neurosis. Fra coloro proprio che traghettarono il death metal verso che quella che è la poi stata la grammatica del post-core. Qui ci andiamo ad ci siamo ascoltati un lavoro invece piuttosto recente rispetto appunto ai primi lavori dei Neurosis. Stiamo parlando del 2007. Giving to the Rising si chiamava il disco, di 70 minuti. Hidden Faces. Perché accanto a questo tipo di sonorità così invasiva e totale rispetto proprio alla psiche, che induce essenzialmente due sensazioni. Quella di devastazione di un territorio selvaggiamente post-atomico, con dei guizzi estremi invece di potenza della natura. In opposizione a quanto l'uomo di devastante, di autodistruttivo riesce a compiere. È un po' questo il tema principale in cui gira il tutto il discorso del post-core. E quindi lasciamo questo Giving to the Rising, registrato da Steve Albini e con Steve Von Till alla voce, ormai così è diventato un po' il leader dei Neurosis, Dave Edwardson, Noah Landis, Jason Rader e Josh Graham. Dicevamo, lasciamo i Neurosis . Lasciamo Oakland e gli Stati Uniti per andare invece nella Londra dei Transitional, Stomach of the Sun è il loro lavoro. Dal quale andiamo a trarre la quinta traccia, che si chiama Blue Sky Fall, il cielo blu cade su di noi. 22 e 23 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, questa, anzi queste, le due versioni di Thompson Is Ok. Giucca Reverberi. Luca Di Maria, Mirko Venturelli, Emanuele Reverberi. Lorenzo Lanzi, questa la formazione storica, la prima formazione dei Giardini di Miro, poi ha avuto diverse varie modificazioni nei componenti, negli elementi, nelle partecipazioni. Le due versioni, perché si tratta Rise and Fall of Academic Drifting, il primo disco per la band di Cavirago del 2001. E poi una sorta di rifacimento remix dell'anno dopo, The Academic Rise of Falling Drifter. Ed infine raccolti poi in un cofanetto insieme i due dischi qualche anno più tardi. Questo vi chiedevamo di spegnere tutto quello che non è la radio. E come diceva qualcuno oggi in diretta, meglio ancora se la radio in FM. Tenendo le luci basse, assaporando la notte. Ci diamo nuovamente una scossa, andiamo al primo lavoro degli Isis, o ISIS, poi si sono sciolti non per il nome, che è assolutamente precedente a quello dello Stato Islamico e non aveva assolutamente nessun tipo di, non c'è assolutamente nessun tipo di collegamento se non quello della casualità di un nome tutto sommato facile. Nel loro caso, infatti, Isis sta per Iside, tradotto in italiano. Celestial è il loro primo lavoro. Da qui andiamo ad ascoltarci CFT New Circuitry and Continued Evolution. Black Hole Sea Lights, lasciamo Giardini di Miro per gli Isis a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. 23:38 minuti primi. Ormai 23:40 minuti primi, The Hollow Bones. Hollow Bones è una band italiana da Milano, nata nel 2016 dall'ispirazione e dall'idea di Carlo Garoff, percussionista, batterista ed autore delle liriche. Jacopo Mettino è il bassista e l'arrangiatore. Claudio Fabbrini invece alla chitarra elettrica. Il loro stile è una combinazione di metal, post rock da un tempo, elementi di elettronica e simili generi. E appunto loro chiedono questa ecletticità anche a chi li ascolta. L'ispirazione della band, del nome della band, viene dallo stregone dei Sioux Lakota. Frank Full Crow Hollow Bone, appunto. E mentre lanza, urla titoli su apro virgolette gli antagonisti che assaltano una volante e lì si sviluppa tutta la stizzita e moralistica attitudine del potere affinché semplicemente un atto per cercare di far andar via un migrante, insomma, dalle grinfie della polizia diventa un caso nazionale. Vi andiamo un po' a illustrare quello che così la radio presenta nella colonna di destra del sito, cioè le iniziative che più ritiene importanti da pubblicizzare. Innanzitutto iniziativa di autofinanziamento della radio, il 9 marzo sfida il tuo confine urbano, esci da raccordo e supporta Radio Onda Rossa dal 1977, la voce dei senza voce dalle 22. DJ set, live set techno al XOAT, Aure e Marco, via dei caduti della guerra di liberazione 270. We'll be right back. partenza alle 22. DJ set, live set, Amplify by Evergreen Audio Solution, serata a sostegno di Radio Onda Rossa, via dei Caduti della Liberazione 270 a Spinaceto. Sottoscrivi per Radio Onda Rossa. Intanto si comincia a concretizzare quello che sarà un appuntamento più o meno fisso settimanale di un ponte radio fra varie emittenti in etere e in web. Che si uniscono in ponte radio appunto normalmente il venerdì pomeriggio 13-14:30. Su vari argomenti, quindi vi invitiamo a restare all'ascolto della radio e anche per questo nuovo appuntamento. Radio Onda Rossa che potete ascoltare dal sito della radio www.ondarossa.info, nell'etere romano e laziale sugli 87,9 della modulazione di frequenza. E invece a Terni la radio non arriva, ma da un po' di mesi a questa parte. Radio Onda Rossa trasmette sul DAB, sulle frequenze DAB a Terni e provincia. Si è quindi sviluppata una vera e propria redazione che collabora con quella della radio a Terni e comincerà uno spazio redazionale di domenica 3 marzo, trasmissione in diretta dal CSA Germinal Cimarelli per parlare della storia della conflittualità a Terni. Quindi Radio Onda Rossa chiama, CSA Cimarelli risponde in diretta da Terni sulla stazione DAB Onda Rossa domenica 3 marzo, Terni che lotta, dalle ore 11 diretta radio, dalle ore 13 pranzo sociale, alle ore 15 Dharma live. Centro sociale autogestito Germinal Cimarelli, via dell'Anificio 19 a Terni. C'è anche un numero di telefono per informazioni, o WhatsApp o Telegram, lo potete trovare. Sul sito di Radio Onda Rossa. Domani invece, 29 febbraio, da 4 mesi in corso la pesantissima offensiva contro Gaza dell'esercito israeliano, in continuità con 76 anni in cui il regime sionista ha portato avanti il massacro del popolo palestinese. Questo genocidio ha raggiunto dimensioni mostruose, oltre 30.000 morti solo negli ultimi mesi, rendendo sempre più urgente la necessità di moltiplicare iniziative di denuncia e sostegno alla resistenza palestinese. E per questo appunto 29 febbraio Palestina, le conseguenze ambientali dell'occupazione. Ne abbiamo parlato diffusamente anche dalla radio in queste mattine. L'introduzione di ecoresistenze, Antonio Mazzeo, armi usate sul suolo palestinese, la Union of Agricultural Work Committees, Land and Water Grabbing e poi il Centro Internazionale Crocevia Sovranità Alimentare. 29 febbraio ore 16, Sapienza all'aula 3 dell'edificio di fisica Fermi. Ancora stop al genocidio del popolo palestinese, no alla complicità dello Stato italiano, no all'estrazione di Havana all'estradizione di Anan Yaesh. 29 febbraio, sit-in a Roma, ore 17:30, piazza Montecitorio. Infine, con larghissimo anticipo, vi diamo la comunicazione che un po' di tempo già gira sul sito della radio, insomma, e nei luoghi di movimento. 47 anni di compleanno di Redonda Rossa, mettete sull'agenda, non partite, non organizzatevi viaggetti o cose del genere, perché c'è la festa della radio 24, 25, 26 maggio 2024. www.ondarossa.info. Quindi abbiamo aperto la parentesi con gli Isis e con il loro primo lavoro. Abbiamo ascoltato, qui stiamo ascoltando sotto la nostra voce, Hollow Bones, anzi senza S, Hollow Bone. Nel 2009 invece esce l'ultimo lavoro per gli Isis, poi più o meno si sciolgono. Ultima formazione, Jeff Caxiad, Michael Gallagher, Aaron Harris, Brian Kiffelmeyer alla chitarra e Aaron Turner alla chitarra e alla voce. Questo è il disco del 2009, appunto, si chiamava Weaver and Radiant. E credendo che sia di auspicio per la sveglia di noi tutti quanti, Stone to Wake a Serpent, Isis a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 06 49 17 50. fino all'ultima nota abbiamo fatto ascoltare questa Silk RD Grails da Portland, Oregon. Il lavoro del 2007 Burning of Impurity. Burning of Impurities, che fa parte di quei primi 4-5 dischi dei Grails, uno più insuperabile dell'altro. È difficile scegliere quale sia il più compiuto, forse proprio questo Burning of Impurities. Comunque hanno continuato a suonare con... cedendo un pochettino il passo a queste tracce lunghe che costituivano un po' l'ossatura e andando a creare invece delle song più corte, più compatte, non per questo meno accattivanti, ma appunto alle volte si ha la sensazione che si tratti semplicemente di un incipit, di qualcosa che forse nei lavori precedenti andavano a sviluppare con più profondità. Di questo lavoro in particolare oltre a citare appunto gli autori, cioè Emil Amos alle batterie, ai tapes, alle tastiere, ai vari disturbi e alla melodica, Alex John Hall alle chitarre elettriche e ai samples, William Slater al basso, alla chitarra bassa, al piano, all'organo, ai Rhodes, all'arpa e alle chitarre. VM Zach Riles alla chitarra acustica, al banjo, alla chitarra elettrica e al pedastil. Poi ancora Dylan Rice Leary all'armonica, Corey Gray al corno baritono, alla tromba, e Kate O'Brien al violino. E vogliamo citare anche chi ha registrato queste tracce, perché poi appunto ne parleremo brevemente. Zach Riles, rimaneggiato il missaggio da Emil Amos e Alex Hall, quindi dai stessi Grails. Un lavoro da ascoltare in cuffia oppure con un impianto di buona qualità, poiché è una registrazione che assomiglia per certi versi alle registrazioni di musica classica, in cui ogni strumento non si deve mai amalgamare con gli altri in un indistinto. Ma deve riprodurre la sua specificità. E quando appunto il disturbo c'è, deve essere un disturbo che non è dovuto a un suono impastato, ma proprio alla volontà che questo disturbo e questa dissonanza o saturazione del suono sia proprio quella, insomma. Tanto di cappello a questa registrazione, che proprio dal primo ascolto ci ha lasciato assolutamente attaccati e senza più lasciare il desiderio di riascoltarlo di tanto in tanto, in questo caso insieme a voi. Quindi Grails. Quattordici minuti dopo la mezzanotte, ritorniamo a Tortona in Italia. In Piemonte, a Cortona, scusate. Tortona in Toscana, è stato un errore di GPS. UFO Mammut. La mandiamo da capo, ci parliamo ancora un attimo sopra Warship, pecore di guerra, ed è proprio quello che... Proprio le pecore di guerra sono quelle che oggi chiacchierano, blaterano, aprono la bocca. Si riempiono di parole di grandi valori, di grandi libertà, di grandi democrazie, di grandi esportazioni di democrazia, di autoproclamate superiorità etiche, morali, intellettuali, ma sono solo pecore di guerra. Quelli dell'armiamoci e partite, così indifferenti al fatto che dentro le guerre muoiono le persone, muoiono donne, muoiono uomini, muoiono bambini. Le guerre sono un disastro per l'umanità, e questo l'umanità lo sa bene, inserito in qualche maniera una memoria storica. Che anche, benché le propagande e i venti e questi tromboni non facciano altro che suonare inni, appunto, dell'armiamoci e partite, l'avversione alla guerra rimane sempre, per fortuna, comunque, in ogni paese, in ogni dove. Da capo, Warship, UFO Mammut. We'll be right back. 0 27 minuti primi, una traccia attaccata all'altra per Russian Circle da Chicago, Illinois. Mike Sullivan, Dave Tarnkatz e Brian Cook, attivi dal 2004, questo lavoro. Blood Ear. È del 2019. Hanno fatto uscire un ultimo lavoro nel 2022. E noi ci allontaniamo un pochino da questi suoni. Per andare verso le conclusioni, ma non troppo, Almeno per ora. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, 0649 17 50, recapito telefonico 25 o'clock ai controlli, o almeno ci prova. Station. A sfogliare il vostro cuore come volantini Ikea per trovarci qualcosa di buono, pagina dopo pagina. E arrivati all'ultima, sussurrati i vostri slogan con freddezza da cronaca nera. Sapete cosa c'è da fare? Vi aspetto qui! Minuti dopo la mezzanotte non si riesce a far prima, ci facciamo sempre prendere la mano, ed era un po' che non li passavamo, uscito nel dicembre del 2023 per pochi secondi, ultimo lavoro per Palcoscenico al Neon, da cui abbiamo ascoltato la intro, e Rondine, che è la seconda traccia, hanno presentato, e guarda caso va Disaccordo. Questo lavoro a Disaccordo, li avremo ospiti prima o poi anche in questo spazio. Però come al solito ce la prendiamo comoda noi altri. Per la prossima settimana è prevista invece la discesa un'ettrina di Velester, non sappiamo in che forma, organizzeremo tutto per mercoledì prossimo, non temete. Ci siamo un po' rincorsi. E dato che ci piace passare chi ci ricorda e ci piace passarli perché noi ricordiamo loro, da Bologna Pavel sotto al sole, aspettando il giorno dopo che muore. L'abbiamo dato in anteprima la scorsa settimana durante lo speciale con il Caronte sui nostri anni qui alla radio, anche con chi c'era e chi non c'è più. Pavel, Anatomia del Terrore, ultima sua uscita, Radio Onda Rossa 25 o'clock. You spin me right round, baby, right round. You spin. Sometimes it's all too much for me to hide. When everything gets twisted up inside, and I wish that you were there by my side, but still I try. I'm thinking about the things you do, but I can't help it. The things I think just might be true. I try. Minuti dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa 25 o'clock e andiamo alla chiusura, perché le trasmissioni in diretta della radio finiscono così. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata e delle sue bizzarre selezioni musicali alternate alle repliche della programmazione diurna della radio. Si riprenderà alle 8 della mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, poi le varie corrispondenze redazionali della radio. Dalle 10 alle 12:30 c'è una piccola pausa e poi si riprende alle 14 fino alle 15 con Tutta Scena Cinema, alle 16 fino alle 17 Attica Blues oltre al Black Music, dalle 17 alle 18 La Schiena del Soul, Dalle 20 alle 21 la trasmissione di Sui Libri di Radio Onda Rossa da Tabula Rasa, e a seguire Apostasia, che chiude i giochi. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci hanno ascoltato da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti e poi tutta la varia risma dei decreti amministrativi che ci costringono . Detto ciò, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, ci risentiamo mercoledì prossimo, appunto, con Velester. Bella a tutti e a tutte. Dai. Yeah. again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Dreams, I'll share.